amata di più e poi sorridere di nuovo. Una vita di più dove il mio ieri diverso ritrovo. Una vita di più e di tappe percorrerne tante, essendo anche un tantino meno esitante. Una vita di più. Una vita di più per sotterrare la timidezza. Una vita di più anticipando l'amarezza. Una vita di più, raccontarla forte a tutti quanti, vivendo dei momenti entusiasmanti. Una vita di più. Una vita di più per cantare forte a testa in su l'inno ad una vittoria che non mancherà. E poter poi rimanere solamente noi, riscoprendo sempre nuove novità, senza tanti chissà. Una volta di più, avere il cuore ancora pieno di sangue caldo, fatto con animo sereno. Una volta di più, rivedere i vecchi atteggiamenti, domandarmi se potevo fare altrimenti. Una volta di più. Una vita di più, dolce senza troppo struggere, ma che possa solo e sempre crescere. Una vita di più per dire a lei che finora non ho incontrato mai. Spingiamoci forte, non cadremo, sai, e il nostro sole verrà. Una vita di più per non afferrarla sempre con i denti. Cantare e suonare fra luci rosse o lampioni spenti. Musica uscita dai miei più fervidi sentimenti, come un fiume più chiaro privo di correnti. E non disdegnarmi per quel che ero nel passato, che col presente e col futuro si è allacciato. Non chiedermi perché ogni istante che passa non lo posso fermare. Una vita di più non la so programmare. Sarai tu il mio giorno quando gli anni tenderanno al comune punto dell'arrivo, che è morire da vivo. Morire da vivo. Morire da vivo. Morire da vivo.